Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono equilibri apparentemente precari che resistono per anni prima di scoppiare. Rapporti che sembrano in bilico, eternamente a rischio, sul punto di vacillare, ma che invece, sotto sotto, hanno trovato la loro forza nell'anomalia. A Destini incrociati oggi si parla di profondo affetto e tradimenti, amori totalizzanti e cinema, attraverso la storia di una grande donna che ha saputo farsi carico dell'eccentricità del suo uomo senza diventare solo la sua ombra, di una meravigliosa attrice che, raccontando se stessa, ha raccontato l'Italia. Giulietta Masina. Giulietta Masina. Ad ogni modo, sono qua. Giulietta Masina, fisico minuto ed espressione naturalmente timida, bellezza discreta e borghese, ha spesso impersonato una tipologia femminile un po' triste e remissiva, malinconica e rassegnata. Ma il cinema e la vita a volte non si affrontano allo stesso modo. E così ha fatto la Masina, che ha incarnato con i suoi film donne accondiscendenti, mentre col marito, il grande regista Federico Fellini, ha condiviso gioie e sconfitte, momenti felici e di distacco, e ha accettato grandi ferite senza mai diventare sottomessa, scendendo con lui a compromessi ma in modo del tutto consapevole, senza mai perdere forza e lucidità. Lo ricorda lei stessa, con tenera ironia. C'era da piangere, a me quando c'è da piangere mi si invita proprio a una festa. Fellini l'ha fatta piangere tanto, per anni. La sua incontenibile passione per le donne l'ha portato a tradirla innumerevoli volte. Eppure non ha mai smesso di amarla, di adorarla, di vivere con lei un amore di reciproca dipendenza, come racconterà lei stessa in una delle ultime interviste. Il non aver avuto figli ci ha fatto diventare figlio e figlia l'uno dell'altra. Così ha voluto il destino. Per Federico, genio del cinema riconosciuto in tutto il mondo, Giulietta era più di una moglie. Era una compagna, una musa ispiratrice, un punto di riferimento di cui non potere fare a meno. Tanto che quando nel 1993 riceve l'Oscar alla carriera, il suo pensiero va immediatamente a Giulietta, a quella che è la donna della sua vita. Un pensiero che è anche un ringraziamento a lei che non ha mai smesso, tra le risate e i pianti, di stargli accanto. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dear Giulietta, and please stop crying. Piange tu, non lo sai, che mai lasciarti io vorrei. Piova o no, se vorrai, negli occhi tuoi il sole porterò. Il rapporto tra Federico e Giulietta, lo spippolo, come lo chiamava lui in dialetto romagnolo, un appellativo che indica qualcosa di piccolo e tenero, è un legame indissolubile, fatto di litigate furiose e abbracci. I due sono diversissimi. Lei intellettuale e sofisticata, con una gestualità elegante, una vena ironica e una personalità complessa. Lui più istintivo, immediato, genuino, sanguigno e godereccio. Amante della buona tavola e del buon vino, come racconta il grande amico e sceneggiatore Tullio Pinelli. Mi piaceva venire prendendo l'autobus. Andavo io a prenderlo a Piazza del Popolo e poi lo portavo in una trattoria qui vicina, in mezza campagna. Vino bianco, un po' di salame, formaggio. Stavamo lì chiacchierando. Giulietta conosce bene l'amore del suo Federicone per la cucina e non manca di viziarlo, anche quando lui la fa arrabbiare. Prepara per lui quantità industriali di minestrone, tagliatelle al ragù, pollo alla diavola. Soprattutto è bravissima ad aggiungere posti a tavola all'ultimo minuto, quando lui la chiama tardissimo e magari le dice che per cena non sono in 4, ma in 15. D'altronde, Giulietta ci ha fatto l'abitudine. Federico è un uomo particolare e meraviglioso, e lei si fa scivolare addosso i suoi difetti, accetta le sue mancanze piccole e grandi, ridendoci sopra. Quello che lui le dà in cambio è amore, energia, stimoli. Sa che lei è una donna fortunata. Vive con un uomo geniale, fuori dagli schemi, un uomo impossibile da descrivere. Ci prova Benigni, a modo suo. Fellini è una cravatta, non l'ha mai detto nessuno, non si sa più che dire per Fellini, come una cravatta che uno vorrebbe regalare a tutti, attaccarsi al collo, andare a giro con Fellini attaccato, uno avrebbe voglia di una giacca, mettersi addosso Fellini, avere un paio di scarpe, è il vestiario dell'uomo moderno, Fellini è la merceria dell'universo. Giulietta conosce Federico meglio di chiunque altro, fin da quando all'inizio degli anni 40 lo incontra in radio e se ne innamora perdutamente. Ma prima di raccontarlo facciamo un passo indietro e andiamo in provincia di Bologna nel 1921. Giulietta è una bambina piccola e minuta che non piange mai senza motivo. Sembra quasi aver già assunto un'impostazione borghese, educata. È discreta, sta al suo posto, si fa sentire solo quando ha qualcosa da recriminare. La sua è una famiglia onesta di intellettuali. Il padre Gaetano è violinista e professore di musica, mentre la mamma Angela Flavia è una maestra. Ha una zia benestante, di origine milanese, vedova, che vive sola a Roma. E così i suoi genitori, un po' per farla crescere in una realtà viva come quella della capitale e un po' per farle tenere compagnia alla zia, la mandano a stare da lei quando ha solo 4 anni. Giulietta è una bambina sveglia, vivace e intraprendente. Sente la mancanza di mamma e papà che la vanno a trovare ogni tanto, ma con la zia sta benissimo. Ed è proprio la zia che, mentre Giulietta frequenta ginnasio e liceo dalle Orsoline, la incoraggia a fare l'attrice e la porta ai primi provini. Guardate, Giulietta è brava, il suo talento è indiscutibile. Recita Goldoni, Plauto, i grandi classici. Grazie alla sua voce sinuosa e alla sua perfetta dizione, viene chiamata a lavorare in radio. Ed è proprio in radio, mentre sta registrando la trasmissione Cicco e Pallina, che incontra Federico Fellini, un tipo stravagante, come racconta il suo grande amico Alberto Sordi, un uomo che la incuriosisce immediatamente. Sicuramente a Roma era l'unico che girava una testa così. Poi questo cappellino suo che porta dietro, non è un atteggiamento da regista, non è una mia oggi che fa regista, risale da sempre. Fellini è già un artista a tutto tondo, che sente l'urgenza di comunicare con il mondo. Trasferitosi a Roma da Rimini, ha fatto il caricaturista, ha disegnato vignette per giornali e riviste, ha iniziato a frequentare il mondo dell'avanspettacolo e della radio e a inventare gag e battute per alcuni film di Macario, il re del varietà. Non avevo mai pensato da ragazzo che avrei fatto il regista cinematografico, ma avevo le idee molto confuse. Sapevo che non avrei fatto il medico come desiderava mio padre o il cardinale come voleva mia madre. Per Giulietta è un colpo di fulmine e per Federico è lo stesso, amore a prima vista. Quando si trova davanti quella giovane gracile, brillante, intelligente e sarcastica, sente che è lei la donna giusta. Cominciano a uscire, a stare insieme e dopo pochi mesi vanno a Bologna a conoscere i genitori di lei. Tutto succede velocissimo. Il sentimento che li ha travolti non ha tempo di aspettare, supera tutto, anche la terribile guerra che sta spaccando in due l'Italia. E così nel 43 Fellini, invece di rispondere alla chiamata di leva, sposa Giulietta quasi di nascosto nel buio dell'occupazione tedesca, con un rito celebrato da un monsignore vicino di Pianerottolo, abituato a dire messa in casa. L'angoliera che si apre diventa un altare ed è lì che i due si sposano. Vivono provvisoriamente a casa della zia di lei e intanto cominciano a lavorare insieme in radio, dando il via a quel sodalizio creativo che negli anni a venire li renderà indispensabili l'uno all'altra. Tra tanta felicità arriva anche la tragedia. Giulietta dà alla luce un bambino, l'unico figlio mai avuto, che morirà dopo pochi giorni di vita, segnando per sempre la coppia. Ma la loro unione sembra essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Giulietta Masina e Federico Fellini condividono vita e lavoro. Sono felici, soddisfatti della loro vita. Lui adesso, a metà degli anni 40, sta collaborando a sceneggiature importanti come Roma città aperta di Rossellini e sente che sta afferrando il cinema a piene mani. E infatti nel 1952 dirige il suo primo film da solo, Lo Sceicco Bianco, con Alberto Sordi nei panni di uno strampalato eroe da fotoromanzo. A Giulietta decide di affidare solo un piccolo ruolo, la prostituta Cabiria, e non quello della protagonista, scelta che a lei proprio non andrà giù, anche a distanza di anni. Mi ero innamorata della sposina dello Sceicco Bianco e chiesi a Federico perché non mi faceva fare quel ruolo. E lui pensò che non era assolutamente un ruolo adatto per me, forse per la faccia troppo spiritosa, gli occhi un pochino troppo... Oggi, questo detto fra parentesi, io sono convinta invece che gliel'avrei potuto fare bene la sposina. Sono piccoli screzi tra marito e moglie, tra regista e attrice, perché Giulietta e Federico sono legati a doppio filo. Ed è forse l'eccessiva simbiosi, unita alla sfrenata passione per le donne, che ogni tanto spinge lui a cercare qualche scappatella al di fuori del matrimonio. Giulietta a volte non lo immagina nemmeno, e a volte invece sa e chiude un occhio. Non è sopportazione, più che altro è comprensione, al limite dell'astuzia. Sa che ha sposato un inguaribile Don Giovanni, un uomo che non si può ingabbiare, ma sa anche che lei, nel suo cuore, è e sarà sempre la prima. Perché tutte le altre non sono che una breve parentesi che lo fanno tornare da lei più innamorato di prima. Lei è la sua compagna e la sua insostituibile musa, al punto da ispirarlo con la sua indole da clown naturale che unisce verve comica e vena malinconica per il personaggio di Gelsomina, la protagonista di La Strada. Il volto di Giulietta è perfetto per la parte e Federico lo sa bene. Quello che è importante secondo me nel cinema, io comunque fa cinema, è proprio la faccia, cioè l'attendibilità, la credibilità o la curiosità che quella faccia può suscitare. Il film, con la sua atmosfera circense e onirica, grazie alla magistrale interpretazione della Masina, vincerà addirittura un Oscar come miglior film straniero nel 1954 e farà conoscere l'estro di Fellini in tutto il mondo. Il 57 è la volta di Le Notti di Cabiria, che frutta il secondo Oscar. Le Notti di Cabiria, 188A, quarta. Silenzio! Azione! Di nuovo, il personaggio centrale, la prostituta Cabiria, è ispirato da Giulietta e da lei interpretato. Riprende quella figura di prostituta ingenua e generosa già comparsa in Lo Sceicco Bianco. Cabiria ha grande fiducia nel prossimo e viene ripagata con atroci delusioni. È un angelo con le ali nel fango, come l'ha definita lo stesso Fellini. Cabiria non ha niente della prostituta stereotipata. È buffa più che provocante, si arrabatta, ha mimica da clown, è quasi una maschera della commedia dell'arte. D'altra parte, la stampa internazionale ha cominciato a definire Giulietta la Charlot al femminile. E tutta questa tenerezza fa pensare a un omaggio, una dichiarazione d'amore che Fellini fa alla moglie. Però è vero che c'è stata giustizia in questo mondo. Uno soffre, ne basta di tutti i colori. Ma poi viene il momento di essere felice per tutti. Il film è poetico, commovente, intriso di quella pietà umana che solo Fellini riesce a raccontare. Fellini spesso mette in scena la sua stessa vita. Cabiria crede nell'amore, ci crede tantissimo, e la sua fede non vacilla mai. Come quella di Giulietta, che è tutt'altro che una donna sottomessa al marito. Anzi, è lucida e consapevole, sa quello che vuole, è indipendente. E a volte per Federico non è facile dirigerla sul set come nella vita. Io non posso sentirmi toccare i capelli, mi voglio pettinare da sola, sbagliando, perché a volte mi rigonfio troppo, forse per un complesso che ho di essere molto piccola, e allora penso che il capello molto gonfiato mi innalzi di qualche centimetro. E invece Federico mi vedrebbe sempre con il capello molto attaccato alla testa, tant'è vero che ogni volta che io mi presentavo sul set pronta per girare, la prima cosa che lui faceva mi dava una bella, non botta nel senso di farmi male, una bella pacca sulla testa. E allora già cominciava lì una mia posizione di difesa. Discutono, Giulietta e Federico, discutono molto, litigano, ma poi fanno sempre pace. Il legame che li unisce è totalizzante e unico, nonostante le innumerevoli conquiste di lui e la sua passione per quelle donne provocanti e dalla bellezza procace, così distanti dalla sua Giulietta. Come la svedese Anita Ekberg, che nel 1960 sarà protagonista con Marcello Mastroianni dello strepitoso film La Dolce Vita, che la Ekberg ricorda così. La Dolce Vita era anche una cosa molto di gioia. Non sapeva, non pensava che poteva essere un successo così grande. E invece il successo del film è incontenibile. Fa di Mastroianni un sex symbol di fama mondiale e della Ekberg una diva. la scena del bagno nella fontana di Trevi è diventata in poco tempo un cult, un momento destinato ad entrare nell'immaginario collettivo. Marcello, come here! Hurry up! Ma i successi a volte non bastano a dare fiducia, anche quando travolgenti. Anzi, incutono il timore di non riuscire a soddisfare le aspettative. E così nel 63 Fellini è confuso, in crisi come uomo e come autore. Deve fare un film. Ha già ricevuto un anticipo dai produttori e gli manca completamente l'ispirazione. In più, ha conosciuto una ragazza, una delle tante. Gli è già successo molte volte, ma questa volta sente che è diverso. E sarà diverso anche per Giulietta. Lei è una giovane nata a Tunisi. Gliel'ha presentata una mattina Flaiano, il suo grande amico e sceneggiatore, a Fregene, durante una colazione sulla spiaggia. La ragazza ha una bellezza prorompente, curve che sono la risposta italiana alle maggiorate a stelle e strisce tanto in voga a Hollywood. È una Marilyn nostrana, dall'aspetto un po' sciocco e la voce da bambina. La sua immagine è quella di svampita. Vuole fare l'attrice, ma finora ha racimolato solo piccole parti. Immediatamente lui la colpisce. Era facilissimo amarlo. Io credo che lo amavano tutte le persone che lo avvicinavano. Lei è la persona più distante al mondo da Giulietta, così brillante e preparata. Eppure Federico si sente attratto da lei. Prima è un'attrazione solo fisica, puramente istintiva. Poi si trasforma in amore. Il vero nome della giovane attrice è Elena Greco, ma da tutti è conosciuta come Sandra Milo. Sandra Milo. Con lei, la sua Sandrocchia, la sua bambina, Fellini comincerà una relazione trasgressiva e scandalosa per l'epoca, che durerà 17 anni, come racconterà lei stessa. Era anche il sogno, in qualche modo forse anche la trasgressione, innocente, cattolica, capito? Quindi limitata come trasgressione, e per cui è anche simpatica e anche da amare. Anch'io l'ho amata Sandrocchia. Non dico che l'ho buttata, tutt'altro. Continuo a amarla, però è come la bambina che è in me. Adesso Giulietta e Federico sono in tre. C'è anche Sandrocchia, e Giulietta lo sa. Per un po' fa finta di niente, ma non è una donna ipocrita e se ne infischia delle male lingue, della morale borghese. Accetta per amore di condividere il suo Federico con quella ragazza così diversa da lei, che forse lo rende davvero completo. E lui, con Giulietta e Sandra, ha trovato la sua donna perfetta, l'incarnazione in due donne della sua donna ideale. Paradossalmente, tra i tre incomincia un equilibrio non privo di tensioni, ma un equilibrio, e per una giovane sconosciuta si intravede l'occasione di una vita. Fellini ha finalmente trovato cosa raccontare. Sta per nascere 8 e mezzo. La storia di un grande regista alle prese con un nuovo film, una moglie e un amante. Ancora una volta il cinema non è che la vita presa a prestito e messa sullo schermo. E tu e noi e lei fra noi vorrei. Non so che lei o no. Le mani, le sue, pensiero stupendo. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo raccontando la storia d'amore che lega a doppio filo due donne, Giulietta Masina e Sandra Milo, rispettivamente moglie e amante del grande Federico Fellini. È il 1963 e Fellini è in crisi, come uomo e come artista. Deve fare un film, ha già ricevuto l'anticipo, ma non sa da dove cominciare. Di certo lui non vuole usare storie che già sono state scritte. Il cinema serve per sognare cose nuove. Lo racconta Tonino Guerra, suo fedele compagno di lavoro. Fellini non ha mai voluto toccare un libro. La difficoltà di Fellini era che quando non avevamo un soldo e gli americani insistevano di fare la Divina Commedia, cioè da un Marat Book, semmai in ultimo non fare niente. L'ispirazione proprio non arriva. L'unica cosa che Fellini ha deciso è il titolo del film, 8 e mezzo. Racconta la scelta originale il critico Maurizio Porro. Perché 8 e mezzo? Questo strano titolo un po' cabalistico, misterioso. perché nel 1963, reduce dai trionfi, dalle polemiche, dalla non facile elezione a mito del cinema causato dalla Dolce Vita, nel 1963 Fellini aveva girato 8 film e mezzo. In questo periodo Fellini è confuso. Il suo matrimonio con Giulietta, nonostante le sue altre donne, è solido, forte. Si amano, non possono stare l'uno senza l'altra. Ma è come se gli mancasse qualcosa, quel pizzico di trasgressione in più che solo una pin-up svampita come Sandra Milo può dargli. Il triangolo e la svolta. Lui ora ha tutto e capisce anche che cosa deve raccontare. Semplicemente la storia di un regista che non sa come fare un film. La storia di un regista diviso tra una moglie e un amante. Insomma, la sua storia, fatta di pensieri e sogni, di un continuo rincorrersi tra presente, passato e futuro. D'altra parte, cosa racconta il cinema se non la stessa vita? Per interpretare il suo alter ego, si serve del suo grande amico Marcello Mastroianni. Io lo conosco abbastanza per poterlo, ecco, rappresentare sullo schermo. Devo dire che forse anche un suo atto di modestia, perché quando mi chiamò la prima volta mi disse che voleva una faccia qualunque, mentre gli volevano dare Paul Newman, quindi forse chissà. Per lui era più garbato servirsi di un attore non sensazionale per essere rappresentato da lui, ecco. La moglie del regista è interpretata da Claudia Cardinale, più giusta per Mastroianni della sua Giulietta. Ma per il ruolo dell'amante Carla, Fellini sceglie proprio Sandra Milo, bellissima e inesperta. Ma a lui questo non interessa, gli interessa la sua faccia, quello che può trasmettere con la sua capacità, non la sua capacità attoriale. Non cerca un'attrice, cerca emozioni. Io non ho tanto la sensazione di cercare, quanto proprio di trovare. Al provino le chiede di prendere in mano una chitarra. Sandra, ingenua e un poco maliziosa, risponde che non ce l'ha, ma ha un gatto di peluche. Fellini le chiede di metterlo sotto braccio e accarezzarlo, e la scena lo emoziona. Ha trovato la sua Carla. Io mi chiamo Carla nel film. È una donna così buffa, ingenua, divertente. Devo dire che i primi giorni non ero molto soddisfatta, perché Fellini l'ha voluto anche in un certo modo, fisicamente, no? E allora, per esempio, ha cominciato col farmi rasare completamente le sopracciglia. Ed io mi sembrava di avere una faccia così, assolutamente piatta, no? E poi, ecco, mi ha messo dei nei, no? Un neo qui, si vede. Un altro un po' più giù. Sandra, per il ruolo, risulta perfetta. Curioso come il destino l'abbia messa per la sua prima vera parte, quella che la consacra attrice a tutti gli effetti, a rappresentare se stessa. Infatti, metterà in scena l'amore di una donna nell'ombra, come sarà lei con Federico, per 17 lunghi anni, in cui riderà con lui, soffrirà, penserà perfino di mollare, senza mai dimenticare che Giulietta, comunque, viene sempre prima. Sandra questo lo sa, ma vive d'amore, non le importa nient'altro. L'incontro con Federico, così potente, anche grazie all'essenziale figura di Giulietta, le ha stravolto la vita. La mia vita è stata tutta sotto il segno dell'amore. Le mie scelte sono sempre state d'amore, cioè favorire i sentimenti, agli interessi, sempre, sempre, sempre. Non me ne sono mai pentita. Sandra Milo ha incontrato Fellini e si sono innamorati. Lui è sposato con Giulietta Masina ed è un marito innamoratissimo. Le due donne sono diversissime. Giulietta ha una bellezza aristocratica, elegante, che unita all'espressività del clown l'ha fatta diventare una delle attrici più stimate al mondo. Sandra invece è leggera e provocante. E anche nel suo passato c'è tutt'altro rispetto alla rivale. Sandra Milo, nome d'arte di Elena Greco, nasce a Tunisi nel 1933. Si sposa giovanissima, a soli 15 anni, con il marchese Cesare Rodrighiero. Il matrimonio dura solo qualche mese. Lei è ancora una bambina, ma è sufficiente per avvicinarla a un'elite molto ricercata. Sandra non può studiare. A 12 anni lavora già come ritoccatrice di negativi fotografici e poi passa a fare l'indossatrice. ma è sveglia e molto intelligente. Sa che può arrivare in alto. E ha un animo gentile. Nonostante il suo aspetto provocante, da maggiorata tutta curve, è in realtà una ragazza generosa, buona, legata ai suoi affetti, che sta bene solo quando stanno bene gli altri. E la sua buona fede, mista a ingenuità, la seguirà per tutta la vita. Sono una donna senza pentimenti, capito? Non mi pento di niente. Quindi se ho fatto delle cattiverie, che probabilmente ho fatto sicuramente, le ho fatte inconsciamente. Sandra capisce che con il suo fisico può farsi strada nel mondo del cinema. E infatti nel 1955 comincia a recitare interpretando un ruolo in Lo Scapolo a fianco di Alberto Sordi. Ma l'interpretazione passa quasi inosservata. E anche quelli che seguono sono solo ruoli minori, del tutto trascurabili. Le vengono affidati ruoli da sogno erotico, da mito seducente e irraggiungibile. È il suo corpo che decide. Ma Sandra ha il mito delle grandi attrici, di quelle donne che con un'espressione del volto riescono a trasmettere un carattere. Come Giulietta Masina, a cui sarà legata indissolubilmente per gran parte della sua vita. Sì, perché quando Sandra, mentre fa colazione con Flaiano in un bar sulla spiaggia di Fregene, incontra Fellini, il suo pensiero va istintivamente a Giulietta, sua moglie. Anche lei vuole interpretare ruoli importanti, anche lei vuole far sognare chi la guarda recitare sullo schermo. E invece, per una beffa del destino, per lei Giulietta diventa molto di più. Diventa la moglie istituzionale, ufficiale, dell'uomo che lei ama di nascosto. La donna che, anche se tradita, tiene comunque il coltello dalla parte del manico, perché Federico la ama, non può stare senza di lei, e Sandra sa che Sandrocchia è per Federico una bambolina da proteggere, amare teneramente, ma da non scegliere per la vita. Tra Giulietta e Sandra nasce una strana complicità. Entrambe sanno che sono contemporaneamente vittime e carnefici l'una dell'altra. Sandra, l'amante, dichiarerà più volte il suo totale rispetto per Giulietta. Giulietta, contrariamente alla sua immagine di moglie borghese, era una donna molto vivace e colta. Era una donna estremamente affascinante e intelligente, piena di corteggiatori. Io l'ho sempre ammirata, mai compatita. Dal canto suo, Giulietta accetta la situazione, non è gelosa. Sa che per Federico la presenza di Sandra è indispensabile per la sua creatività e per la sua vita. Fellini ama le sue donne, non vuole rinunciare né all'una né all'altra. E lo dichiara proprio attraverso Guido, il regista interpretato da Mastroianni in 8 e mezzo, come racconta il critico Maurizio Porro. Guido si ricorda o immagina comunque un harem dove tutte le sue donne, e sono tutte grandi attrici, lo sapete, la Cardinale, la Anouk Aimée, Sandra Milo, che è stata addirittura coniata, inventata con questo personaggio meraviglioso di Sandrocchia, e poi mille altre, Rossella Falk. Entrano tutte in questa dimensione così, di grande circo della vita. Sandra però scalpita. Vuole anche una famiglia tutta per sé. Si sposa prima una volta, poi un'altra, e ha 3 figli. Ma non rinuncia al suo Federico. La sua vita sentimentale è burrascosa e travagliata, ma i figli vengono prima di tutto. Anche prima del cinema, che le ha dato tanto, ma che le ha anche fatto tanto male. All'inizio, infatti, con Federico e Giulietta, che sa tutto, si è creata una specie di famiglia. Ma alla fine della lavorazione di 8 e mezzo, la situazione esplode. Giulietta legge una presunta dichiarazione in cui Sandra afferma di essere l'unica musa del regista. E scoppia, l'equilibrio crolla. Sandra litiga con Federico e Giulietta entra in crisi, fa fatica a mangiare, non dorme più. La delusione è grande e deve perfino fare la cura del sonno. E invece Fellini, sorprendentemente, anziché scegliere tra le sue 2 donne, le avvicina, facendole recitare insieme in Giulietta degli spiriti. Di nuovo frammenti autobiografici. Un marito, Giorgio, sogna l'illusione di un nuovo amore, mentre Giulietta, la moglie, sente tutto il suo mondo entrare in crisi. Giulietta, ti ricordi di me? Laura, fai come ho fatto io. Qui è tutto grigio, tutto fermo, tutto silenzio. Vieni con me, Giulietta. Ma ricomporre un'armonia in questa strana relazione a tre è ormai un'impresa impossibile perfino per Fellini. Le 2 donne sembrano non poterne più di questa convivenza forzata. Vorrebbero solo che il destino smettesse di accanirsi così, legandole una all'altra senza apparente via d'uscita. Ma nessuna delle 2 vuole rinunciare a un uomo come Fellini, pur se in condivisione. Turns cartwheels across the floor. was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo raccontando una storia d'amore intensa, duratura, solida, all'interno della quale si inserisce un terzo protagonista. Giulietta Masina, Federico Fellini e Sandra Milo sono moglie, marito e amante che per un periodo di tempo accettano la strana situazione considerandola una specie di famiglia allargata. Finché dopo la fine di 8:30 tutto precipita. Giulietta, se accetta che la Milo sia l'amante di suo marito, non accetta che si autoproclami la sua unica musa. Soprattutto perché lei, con quell'aria da clown, è stata la sua vera ispirazione per personaggi indimenticabili come Gelsomina di La Strada e Cabiria, la prostituta buona di Le Notti di Cabiria. Ma Fellini ancora una volta cerca di risolvere la situazione. Non pensa minimamente a lasciare la sua amatissima Giulietta, ma nemmeno vuole rinunciare alla svampita Sandrocchia, che con la sua voce da bambina tanto lo fa star bene. E così fa recitare insieme le due donne in Giulietta degli Spiriti. La Masina è tesa, per niente a suo agio, e non recita come vorrebbe. Se ne accorgerà anni dopo. Giulietta degli Spiriti, specialmente i due terzi del film, i primi due terzi del film, sempre diretta da Federico, forse glielo rifarei molto meglio, perché purtroppo l'ho capito dopo. Dal canto suo, Sandra è all'inizio ed è da sola. Nessuno sul set la saluta. Per difendersi diventa capricciosa, pretende che in cartellone il suo nome sia scritto grande come quello di Giulietta. Una metafora della sua vita per una donna abituata a essere l'eterna seconda, a vivere nell'ombra. Per conquistare la troupe comincia a sfoderare le sue armi di seduzione. Diventa amica di tutti, parla con tutti, tranne che con Giulietta, che sta dignitosamente in disparte. Sa che per lei recitare a fianco di Giulietta è lusinghiero, ma sa anche che Giulietta è il grande amore di Federico, l'uomo che lei vorrebbe tutto per sé. Diventa gelosa, litiga furiosamente con Giulietta, finché Federico è costretto a intervenire per riportare l'ordine sul set. Non a me, stop, a me. Andiamo, pronti a capo, da capo. Motore, zitti! La situazione sembra essere tornata alla normalità. Si riprende a girare, ma Fellini capisce che la convivenza forzata ormai non è più possibile. La tensione tra Sandra e Giulietta ormai esplode con tutto lo strascico di rancore e dolore per entrambe. L'amore è qualcosa di più del vino, del sesso, se tu prendi e dai. La femmina latina, donna americana, non cambia molto, sai. Finita la produzione di Giulietta degli Spiriti, Sandra capisce che è giunto il tempo di ritirarsi. La presenza di Giulietta è troppo ingombrante nella vita di Federico e per lei sembra non esserci più spazio. Così dà addio a Fellini e al cinema, si sposa per la terza volta e decide di dedicarsi totalmente alla famiglia. Ma Fellini non ce la fa a stare senza di lei. La loro relazione continua e Giulietta continua a chiudere un occhio. Almeno pensa, non è più costretta a condividere un set ogni giorno con quella che continua a essere l'amante di suo marito. Finché lui propone a Sandra il ruolo di protagonista di Amarcord. Sandra ci pensa, ma sceglie di rinunciare, come racconta in un'intervista. La tentazione era grande. Il fascino del passato mi attirava. E poi lavorare ancora con lui. Ma poi ho guardato i miei figli e ho detto no, chiudendo gli occhi per non vedere le luci, il cinema. Ho detto no. È una grande rinuncia per Sandra, una donna tanto femminile quanto forte, con una profondità che fa contrasto con la sua immagine di eterna bambolina. Rinunciare al cinema per lei è fare una scelta coraggiosa, perché significa rinunciare al sogno. Ma il cinema è questo. Se quando tu sei chiuso lì in una sala al buio, no? E parte lo schermo e senti la musica, vedi la gente. Cioè, la capacità di entrare dentro lì, di viaggiare, di sognare e di uscire dal tuo quotidiano. Rinuncia al cinema, ma non a Federico. Giulietta lo sa e di nuovo fa finta di niente, continuando la sua vita normale costellata di grandi film e di grandi successi. D'altra parte, lei non è solo la moglie di Fellini, è una grande attrice, una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. E lui continuerà a dirigerla come mai ha diretto nessun'altra. Mi è sempre piaciuto rischiare. Non sono il tipo che si tira indietro. Pippo poi dice che il vero artista è come il lupo. Quando sente il richiamo della foresta... La relazione tra Federico e Sandra continua per 17 anni, in parallelo al suo matrimonio. Ma solo quando finisce, Federico dirà a Sandra di averla amata. I due prendono strade separate e Federico continua il suo amore quasi simbiotico con Giulietta, al punto che i due si ammalano e muoiono a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra. È il 1993. Federico ritira l'Oscar alla carriera ed è già ammalato. Meno di due mesi più tardi sarebbe stato operato a cuore aperto a Zurigo. Ma anche Giulietta, che le telecamere in Mondovisione mostrano piangere commossa dalle poltroncine rosse, mentre lui con la statuetta in mano le dice di non piangere, è già ammalata. Quelle lacrime dunque sono le lacrime di una vita. Lacrime di gioia per la consacrazione definitiva del marito e lacrime di paura, di dolore, per i giorni che verranno. Sempre e comunque insieme. Una vita magica come il cinema di Federico. Una vita sempre in prima fila. Quando finisce l'amore tra Sandra e Federico, si divide finalmente un destino incrociato a forza, in modo a volte più leggero, a volte molto più doloroso, quello tra Sandra Milo e Giulietta Masina. Il regista dell'incontro è stato Federico Fellini, di cui non conosceremo i tormenti dell'anima, la sofferenza di amare due donne contemporaneamente. Se non per bocca di Guido, il suo alter ego di 8 e mezzo, interpretato da Mastroianni. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace. Poi la tua mano prese quella mia, per te lasciai la loro compagnia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.